Bologna e dintorni. Come va il mondo? Sabato 1 marzo, puntata numero 20 per Bologna e dintorni. Io sono Alessandro Albana e oggi non potevamo che tornare in Germania a una settimana dalle elezioni federali che hanno registrato ben poche sorprese in termini di risultati, con i cristiano-democratici della CDU che si sono imposti come primo partito sfiorando 29% dei consensi, con il successo, il tristemente annunciato successo del partito xenofobo Alternative für Deutschland, che ha conquistato la seconda posizione in termini di consensi con il 20% circa dei voti, e contestualmente con la disfatta, anche questa preannunciata, dei socialdemocratici dell'SPD, che insomma si sono piazzati in terza posizione con il 16% circa dei consensi, ma che hanno registrato una flessione rispetto alle elezioni del 2021, addirittura del 9,3%, a fronte di un aumento dei consensi di Alternative für Deutschland, di AfD, del 10,4%. Elemento significativo è stato il successo elettorale del partito di sinistra Linke, che con l'8,8% dei voti, insomma, ha fatto registrare un aumento di circa il 4% rispetto alle elezioni precedenti. Il futuro politico, quanto attiene la formazione del governo in Germania, è ancora pieno di incognite. La strada che sembra più probabile è quella di una grande coalizione tra i cristiano-democratici del prossimo cancelliere Merz e i social democratici dell'SPD, che combinando le loro forze avrebbero una maggioranza all'interno del Parlamento tedesco, con 328 seggi sui 630 totali. Ovviamente si tratta di una maggioranza piuttosto risicata e non qualificata per portare avanti riforme di ampio respiro. Uno degli elementi che si è imposto e affermato, che è emerso con più forza durante questa campagna elettorale e che è stato confermato poi con i risultati delle elezioni, riguarda la società tedesca, che sembra sempre più essere oggetto di un fenomeno, un processo di polarizzazione, di radicalizzazione delle visioni, delle opinioni politiche, e anche sempre più divisa e frammentata al proprio interno. Restano poi le incognite relative alla formazione del governo, come dicevamo, e al futuro politico del paese, che negli ultimi anni e in particolare negli ultimi mesi ha vissuto un periodo di stagnazione economica, che adesso ha diversi rompicapo a causa degli scossoni dati proprio agli affari globali dall'insediamento di Donald Trump alla Casa Bianca, e che già stanno ridefinendo le relazioni transatlantiche. Per cercare di comprendere quale sarà il futuro prossimo della Germania e che cosa si delinea in termini politici per il paese, vi chiedo di attendere ancora qualche minuto e di risentirci dopo una breve pausa musicale. A tra poco. Bye. Da Stoccarda i Freibeuter con Antifascistoi, bentornate e bentornati. È passata una settimana dal voto federale che si è svolto in Germania dopo la sfiducia del governo a guida socialdemocratica di Olaf Scholz dello scorso anno, della fine del 2024. Le elezioni federali in Germania hanno registrato l'ormai nota e piuttosto prevedibile avanzata il successo del partito di estrema destra apertamente xenofobo Alternative für Deutschland, contestualmente la disfatta dei socialdemocratici dell'SPD, mentre la CDU si conferma, secondo anche le previsioni emerse prima delle elezioni, i cristiano-democratici della CDU si confermano il primo partito in Germania, e molto bene è andata anche la forza di sinistra, il partito di sinistra Linke, che ha sfiorato il 9% dei consensi. Grande resta l'incertezza sotto il cielo del futuro politico della Germania. È ancora in fase di definizione la formazione del governo, della coalizione di governo, e lo sarà ancora per qualche tempo. Per cercare di fare chiarezza in questo quadro piuttosto confuso, che ci dirà nelle prossime settimane che cosa aspetta, che cosa succederà per il governo del principale paese dell'Unione Europea, siamo in collegamento di nuovo con Lisa Di Giuseppe, già ospite di questa trasmissione in passato, giornalista di Domani ed esperta di Germania. Buongiorno Lisa e grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi per avermi invitato. Buongiorno a tutti. Dunque Lisa, inizierei con una domanda relativa alle prospettive, agli scenari politici che si aprono nel prossimo futuro della Germania. Quadro, lo scenario più probabile è quello di una grande coalizione formata dai cristiano-democratici di Merz, della CDU e i socialdemocratici della SPD. Questo garantirebbe una maggioranza, seppure non di grande respiro, a una eventuale coalizione di governo, ma ti chiedo, questa maggioranza sarà sufficiente a garantire stabilità eventualmente al governo tedesco? E quali sono, se ci sono, le variabili e gli altri fattori che potrebbero influenzare la formazione ed eventualmente la buona salute del governo tedesco? È una domanda molto complessa e purtroppo è difficile prevedere il futuro. Sicuramente ci sono un sacco di questioni su cui la SPD e la CDU dovranno trovare un compromesso e tendenzialmente sono questioni su cui è difficile mettersi d'accordo o trovare una via di mezzo. Penso per esempio all'Ucraina, dove la CDU per esempio proponeva una linea molto più interventista. Il partito di Merz è disposto anche a mandare i missili Taurus, per esempio, cosa che invece la SPD non aveva ancora intenzione di fare. Altre questioni ancora aperte sono anche l'idea dell'economia, che i due partiti non necessariamente condividono. Comunque parliamo di un partito socialista e di un altro democristiano, quindi sono visioni del mondo non sempre che collimano. Altre questioni ancora sono, per esempio, anche i migranti, la gestione della questione dell'immigrazione dei richiedenti asilo, su cui la CDU, soprattutto negli ultimi mesi, aveva spinto per una stretta abbastanza forte, che altro aspetto su cui la SPD non è esattamente dello stesso avviso. Saranno dei colloqui duri, delle trattative difficili, però penso che entrambi i partiti sappiano che, come dire, i tempi sono complicati. Là fuori c'è un'America che non guarda più all'Europa con lo stesso favore, diciamo, c'è una Cina che è pronta a crescere ulteriormente sul mercato mondiale. Lo stesso cancelliere designato Merz l'ha detto, bisogna darsi una mossa, bisogna sbrigarsi. Altro fattore, una volta che il governo sarà formato e magari sarà anche stabile, è l'azione delle opposizioni. Anche qui abbiamo il fuoco incrociato. Da un lato c'è AfD che ha già annunciato un'opposizione durissima a questi partiti del centro, che dal loro punto di vista sono, come dire, l'ultima incarnazione di un sistema che per AfD è ormai superato e appartiene al passato. Dall'altra c'è la Linke, che comunque ha toccato nella sua campagna elettorale tanti temi pratici come il tetto agli affitti o il welfare per chi, per esempio, ha perso il lavoro, tutte questioni su cui sicuramente ci sarà modo di tornare e di dare battaglia in Parlamento. Uno dei fattori che è emerso con una certa chiarezza dalle elezioni tedesche dello scorso fine settimana riguarda il futuro, nonché il presente di alcuni personaggi di spicco della politica tedesca. Ne scrivevi tu stessa dalle pagine di domani, il 25 febbraio. Robert Habeck, capo leader dei Verdi, ha annunciato di non voler più ricoprire ruoli di primo piano nel partito. L'ex cancelliere, leader della SPD, dei socialdemocratici, Olaf Scholz, ha annunciato di non voler essere in prima linea nelle trattative che riguarderanno la formazione del nuovo governo. Infine, Christian Lindner, personaggio amato ma più che altro odiato, ex ministro delle finanze, ha sostanzialmente dichiarato di voler lasciare la politica e quindi di non proseguire con alcun incarico di responsabilità. Sulla base di queste premesse, ti chiederei: si apre alla luce, dopo le elezioni, una fase di ricambio e rinnovamento delle classi dirigenti della politica tedesca? Allora, ti direi tendenzialmente sì, nel senso che nonostante la CDU abbia in realtà vinto le elezioni con una persona, un leader politico che era popolare in realtà sul finire degli anni 90 e sull'inizio degli anni 2000, per i partiti che sono stati battuti probabilmente sì, si apre una grossa fase di rinnovamento anche generazionale. La SPD ha già scelto il nuovo capo del suo gruppo parlamentare che si chiama Lars Klingbeil, non è un perfetto sconosciuto, da diversi anni, azzarderei decenni, anzi da un decennio più o meno è dirigente di spicco comunque della socialdemocrazia tedesca. Anche per i Verdi, come dire, la stagione di Robert Habeck, che era la stella dei Verdi, diciamo insieme alla ministra degli esteri Annalena Baerbock, probabilmente si annuncia un cambio di stagione. I liberali sono in una posizione, se possibile, ancora più difficile perché sono proprio usciti dal Parlamento, non sono riusciti a superare la soglia del 5%. Di conseguenza, per loro probabilmente c'è un partito da ricostruire, ci sono sicuramente alcuni europarlamentari in questo momento, comunque dirigenti di partito, che si candidano a raccogliere quell'eredità. Se basta, è tutto da vedere. Un altro dei fattori che sembra emergere con una certa chiarezza dalle ultime elezioni riguarda la polarizzazione e l'apertura o l'approfondimento di alcune fratture esistenti all'interno della società, del quadro sociale tedesco. La prima e più famosa e anche più conosciuta è naturalmente quella che riguarda i Land dell'Ovest e quelli dell'Est. Sappiamo che Alternative für Deutschland ha fatto incetta di consensi praticamente in tutti i Land della Germania orientale. Diversa sorte è toccata invece ai territori della Germania occidentale. Questo è naturalmente un processo già piuttosto noto, come dicevamo, ce ne sono altri altrettanto interessanti. La crescita di consensi strabiliante dell'AfD da un lato non è corrisposta a una sorte opposta per alcune forze di sinistra. La Linke, come dicevamo, ha ottenuto un buon numero di consensi e un sostanziale successo dal punto di vista elettorale. Un'altra delle questioni che sembra emergere con chiarezza è, per esempio, come sia la Linke che l'AfD si siano posizionati all'interno delle preferenze dei consensi delle fasce giovanili. La Linke è risultato essere il partito più votato e l'AfD, quindi un partito esattamente opposto in termini di visione politica rispetto alla Linke, si è affermato come secondo partito. Alla luce di queste parziali, ma credo non insignificanti premesse, è possibile dire, secondo la tua osservazione, secondo quello che vediamo anche da queste elezioni, che la società tedesca oggi è una società sottoposta e oggetto a una crescente spinta di polarizzazione sia politica che sociale. Secondo me dici molto bene sul fatto che sono diversi livelli che si incrociano. Abbiamo sì, il discorso est-ovest, che però va anche un pochino contestualizzato, nel senso che ricordiamoci che l'est è molto meno popoloso dell'ovest, e quindi anche le percentuali monstre che abbiamo visto vanno sempre rapportati al numero di abitanti. Detto questo, c'è sicuramente un tema che riguarda i giovani. da che nel 2021 avevano privilegiato soprattutto partiti di centro come i Verdi e la FDP, in queste elezioni sono invece migrati verso gli estremi. Il primo partito tra i giovanissimi è la Linke, il secondo partito è AfD, quindi estrema sinistra e estrema destra. C'è probabilmente anche un tema di flussi che riguardano chiaramente la popolazione, cioè altre caratteristiche della popolazione, magari appunto le donne tendono a votare più a sinistra, gli uomini più a destra, stesso discorso per le realtà più urbane oppure quelle più provinciali. Probabilmente sì, c'è un tema di crisi che nel 2021 non c'era, che viene interpretata in maniera diversa. Probabilmente le soluzioni molto pragmatiche, sia da un lato che dall'altro, poi con efficacia discutibile in alcuni casi, che hanno proposto la Linke AfD, sono risultati delle risposte migliori di quelle che hanno dato i partiti che in parte erano già al governo nell'ultima legislatura. Ancora qualche minuto per un'ultima domanda, Lisa. Riprenderei alcuni dei punti che hai toccato all'inizio di questa nostra conversazione. L'immigrazione ha naturalmente occupato gran parte dello spazio del dibattito pubblico e politico durante la campagna elettorale. In questo naturalmente l'AfD ha primeggiato con i suoi messaggi di odio e xenofobia, ma altri partiti non si sono sottratti a cavalcare l'onda populista dell'indignazione nei confronti degli immigrati. Esistono però nel prossimo futuro, se non nel presente della Germania, sfide e problemi politici e di altro ordine di carattere ben più concreto. Appunto, alcuni li citavi tu, dalla politica estera alle condizioni dell'economia nazionale. Ti chiedo quali sono le sfide più urgenti e significative che il prossimo governo tedesco è chiamato ad affrontare. Allora, senz'altro c'è un tema dominante di politica estera, insomma, senza tornare su Trump o sul conflitto in Ucraina, c'è anche un discorso di Europa che va analizzato. Friedrich Merz è già stato ospite di Emmanuel Macron, c'è l'ambizione, non è chiaro in questo momento quanto concreta, di riavviare quel motore franco-tedesco che negli ultimi anni si era un po' fermato. C'è senz'altro in cima alla lista delle priorità di Merz il discorso dell'economia. C'è una crisi economica che ormai dura da parecchi mesi, i dati non sono confortanti e soprattutto c'è un tema di export. La Germania è una grande potenza esportatrice, ma i mercati a cui si rivolge, soprattutto quello cinese, negli ultimi tempi non dà più le stesse soddisfazioni alle aziende tedesche. Aggiungiamoci anche i dazi che Donald Trump ha già promesso all'Unione Europea. Insomma, il quadro è tutt'altro che florido. Trovare una soluzione che dal punto di vista di Merz è un abbassamento drastico delle tasse per imprese e anche per i più abbienti è l'inizio, dal suo punto di vista, di un programma di recupero dell'economia. Insomma, come spesso accade anche in questo caso, toccherà aspettare un po' di tempo, certamente qualche settimana, per capire in che direzione andrà la politica tedesca e che cosa succederà per la formazione del governo. Io intanto, Lisa, ti voglio ringraziare molto, come sempre, per il tuo puntuale contributo. So che sei tormentata da più parti, visto il tuo profilo e il momento, e diciamo anche noi abbiamo contribuito a questo tormento. No, non siete mai un tormento, assolutamente. Grazie per l'invito di nuovo, mi fa sempre piacere. Bene, grazie ancora Lisa Di Giuseppe. La puntata di oggi termina qua. Noi ci risentiamo come di consueto il prossimo sabato in FM online oppure su app. L'emittente la conoscete già, è Radio Città Fucico.